test, test, test, sa, sa. Ecco qua. Se vuole andare calmo. Ok. Sparviero, se sei all'ascolto. Claudio, ci sei all'ascolto? Claudio, ci sei? Arrivato, sì. Mi ho acceso adesso. Sono veramente tutto messo male. Sto prendendo un sacco di freddo, ma freddo, però mi è arrivata la gru nuova, quella da 40 metri. Stamattina era un freddo tra posizionarla, farla. Casino, sto prendendo un bel di freddo, c'ho tutta dolori e brividi di freddo. Ma da medico non ci sei andato a passare qualcosa, almeno per prevenzione? No, non ci sono andato giù, non sono andato perché ero impegnato, però sicuramente un po' di influenza mi sta prendendo, perché sto uscendo la mattina presto, sono questi lavori nel condominio ed è arrivata ieri la 42 metri, mi pare un mostro, è arrivata, ci vuole tu sul trasporto eccezionale. E stamattina col giovane la stavamo posizionando, facendo, adesso l'abbiamo messa fuori, c'erano i vigili urbani per transennare la strada, e c'era un freddo, ma freddo, devo aver preso troppo freddo. Ma già ti senti male, poi prendi freddo, così non fai altro che aggravare la situazione. Devi riservarti, se no magari ti prendi veramente l'influenza e poi magari quei 4-5 giorni ti sale l'influenza te le pappie, e per cui devi stare attento e coprirti soprattutto, anche se magari sui, copriti bene se proprio sei obbligato a uscire a fare delle cose. Non andare, perché questo è il periodo critico per l'influenza, tu lo sai, il virus, capita, sono sempre allerta, non va bene, ma poi dai, riservati. No, non sto sudando, sto facendo la supervisore appunto per questi lavori nuovi che stiamo facendo. E il geometra mi ha detto appunto di stare a disposizione per questi lavori e poi di controllare soprattutto questa nuova scala che è arrivata, che costa 250.000 euro, se c'è, dove c'è un mostro. Allucinante, mai vista, 42 metri per fare tutte le parti alte, perché noi con la parte bassa abbiamo finito con quella piccolina, capito? Adesso c'è da fare la parte alta e quindi è arrivata questa grande. Ma dicevo, c'è un brivido di freddo, guarda che a casa ci sono 23 gradi ci sono qua dentro, non è buccia di yoga, e c'ho freddo, c'ho brividi di freddo. Evidentemente ti sei già preso l'influenza, anche prima di uscire controllati la temperatura, perché guarda che poi è peggio, è meglio interrompere un paio di giorni, così almeno ti riprendi bene, ma forse così al freddo, con le giornate che stanno facendo, per carità, domani specialmente penso che piova anche qua, perlomeno stando a quello che hanno detto al meteo, poi bisogna vedere. Perché sembrano così le giornate belle, no? Ti ingannano, però poi in realtà quella dieta fredda capita, quella pesca, pesca, no, copriti bene. Via, aspetta che passo attivino le 23 per il Gio Maria ha messo a posto, perché poco fa mi ha chiesto un controllo, era Santiago 7, non vorrei che quel vento che ha fatto l'altro giorno l'abbia sganciato il PL sopra. Ok, d'accordo. Eccomi qua, dai. Oh. Non guardi male, puro allora, lo sai. Puro, allora ti hai preso con il poeta. Allora vai subito al medico, fatti dare una cura, perché se ti hai preso anche la gola, ti hai già pescato l'influenza. E prima che diventi una cosa più lunga, è meglio bloccarla subito, così almeno ti sistemi in uno o due giorni, e non vai. Sì, in effetti sta facendo molto male con la radio di Dio Maria, soprattutto la radio, avevo una radio brutta, non capisco come mai, vabbè, evidentemente è tutto vero, lasciando il freno, perché poi queste radio si guastano, o perlomeno fanno difetto. No, se la ferma è una cosa, ma il problema proprio, ma a me me l'aveva detto Bianconi, mi ha detto in AM è meglio tenerla sempre oltre i 10 watt o a 10 watt, poi spingi lei naturalmente con i picchi di modulazione, però tenerla così a 3 watt non lavora il microprocessore, la radio esce malissimo, infatti era Santiago 7, io stavo ascoltando, avevo appena acceso, infatti ho aggiustato l'UBMR e ho acceso questa. Anche perché la mia era un paio di giorni che non la accendevo neanche, però un paio di giorni non le fa niente, ma lui la tiene molto molto spenta con la radio e quindi causa anche a volte queste chiusure di modulazione eccetera, capito? Va tenuta un po' in funzione e poi tenerla a quella potenza a 3 watt non va bene, non va assolutamente bene, 10 watt almeno, 8-10 watt di portante muta, in modo che il microprocessore inizia a spingere, se no esci male. Vabbè, io ce l'ho sempre a scala a 20, 10 watt. 10 watt poi da qualcosa in più quando modulo, però 10 watt. E se no si guasta. La già ieri l'ha già fatta riparare a torre. Infatti. Allora, così va benissimo, voglio. Sì, no, stavo facendo male, tu pensa che ne arrivava molto più forte Tino mi arrivava 9,20 modulati e lui a me mi stava arrivando 9,95 modulati, ma proprio a malapena. Andare, e infatti ti stavo chiamando un po' canti, poi io così per caso ho voluto adesso chiamo il PMR e ho chiamato, ma il PMR non ho mai sentito evidentemente. Tra un passaggio e l'altro di Graziano ti avevo chiamato, evidentemente non mi hai sentito. E poi ti ho sentito lì, allora per quello che sono intervenuto e ti ho chiamato in sovramodulazione. Andare. No, guarda, era acceso, perché ce l'avevo appresso. Ma lo sentivo tutta la sera, andando di Samondezza, è una cosa allucinante, sono questi ragazzini, tutto pieno di ragazzini, e dicendo parolacce, dicono parolacce, poi parlano con questo ciccarino che ti rimane allo zebedo, e allora ne l'ho spento, se no ti avrei sentito, figurati. E infatti ho acceso il 4.40, ho visto il 10, non c'era nessuno, ma sono il 23 e ho sentito a loro. E ho visto il segnale di Giovanni e quindi sono entrato a dirglielo. Non è che io se vedo qualcosa che non funziona già avviso, anche perché uno può fare danno, ma loro sono vicini, non se ne accorgono, e quindi sono entrato a dirglielo, capito? E adesso già sta andando bene, era dovuto proprio dalla radio troppo bassa di potenza. E vabbè. E comunque, no, mica sono uscito la settimana scorsa, io mi c'avevo il pacchetto della gola, stavo prendendo l'antibiotico addirittura, quindi evidentemente ero troppo debole, sono uscito troppo in fretta. E già da ieri sera ho dormito col pigiama pesante. Stamattina ho avuto la desci e evidentemente mi ha fottito. Ma brividi di freddo, Infatti oggi mia figlia faccio portare il cane, faccio portare a lei. Sì, ci conviene fare così, perché adesso si è affittata. No, perché se sei già pescato, se ti fa male anche la gola sei pescato, per cui è meglio riservarsi un po', se no se ti durare uno o due giorni ti dura magari 6 o 7 o 8 giorni anche, e sai, specialmente se diventa una ricaduta quella, perché già mi stavi dicendo che casa prima era mezzo pescato, ti sei ripreso, ma adesso questa potrebbe essere ancora ricaduta, sarebbe peggio ancora. Allora, ieri abbiamo vinto metà coppa, l'abbiamo vinta, anche con un po' di fortuna, però l'abbiamo vinta, perché ci vuole anche la componente fortuna nello sport. Si ammala, tocca mettersi in malattia pure, non c'è la coppa. Buonasera a tutti. Ehi, infatti domani mando un certificato medico, se dico a pigliarci ai luci, che non vado a travagliare. Quante volte fa sono andato in giro di te, a durori, ma a farmi la mattina alle 5, prendermi un bustino antinfiammatorio e andare a travagliare, capito? Sempre ho fatto così, sempre. Già non mi possono dire che sono stato assenteista per un raffreddore, quando io sono stato 3 mesi a casa, ma per infortunio, basta. Quando sono caduto dentro il vascone che mi si è staccato il coso della spalla, capito? E basta. E poi per quando mi hanno operato l'occhio. Per il resto, malattia di influenza, di dolore, non ci mai conosciuto io, quindi non ci vuole lamentare. No, ma è il tempo, fra. Mi sta prendendo già un paio di volte questa brutta influenza. Forse ho smesso di avere gli anticorpi, cosa vuoi ti dica? Non lo so. Sì, Giulio, per rispondere a te, la coppa è stata vinta, la partita non mi è piaciuta per niente. Ti posso dire che il Milan non ha meritato di perdere, meritavamo i supplementari e i rigori, perché la Juventus ha fatto nettamente schifo, con la prima squadra, con i super campioni come li chiama Allegri, a me la Juventus non è piaciuta per niente. Il Milan in tante occasioni ci ha schiacciato come se niente fosse, capite? Infatti me l'ho vista brutta, ho detto queste partite che pareggiano, perché la traversa di Cutrone mi ha messo un po' in allarme, e ti posso dire che è andata bene, però non è stata una bellissima partita, su questo lo dico da sportivo, non da juventino. Avanti Fra, buonasera. Ciao. Io risposto non anzi quasi niente. E niente, sai cos'è il club? Quando esci, se rivede le mutande più grosse, anche proietti più grosse. Avanti Giulio. Ok, ciao qua. Bel tratto. Questo è il periodo, è il periodo, bisogna stare attenti, perché ci vuole poco a prendersi le influenza. Questo è un periodo disgraziato, l'inverno è sempre stato così. Ma il mio medico tempo fa sono andato per farmi fare una ricetta, non per me ma per mia moglie, e mi ha detto, ma il vaccino te lo vuoi fare? Ma se no, non ne ho mai fatto un vaccino, no, e non ne farò mai. Dai, loro ci guadagnano, perché più vaccini fanno, più soldi guadagna lui. E allora no, io non ho mai fatto la verità, tanto il prete sarà di prete a prendere lo stesso. Però nel caso di Claudio, perché già diversi giorni che è così, un po' si sente male, un po' si riprende, ma se continua così, fin quando si ristabilisce perfettamente l'equilibrio di salute, e allora la cosa comincia a essere un po' critica, deve riservarsi. Io la penso così, lui lo sa che è così, per cui però magari ha da fare, allora è costretto e va a fare quello che deve fare. Vabbè, vedete. Avanti qua. Ehi, non è che mi prende nessuno, però voglio questo impegno col condomino, Te l'ho detto. Stamattina, ieri mattina è arrivata questa bestione da 42 metri. E quindi oggi stiamo cercando di capire come farla posizionare, perché domani mattina c'è l'impresa e deve fare tutte le parti alte, quindi 30 metri, capito? Perché noi qua a piccolo abbiamo già finito, poi giù i bassi sino ai quinti piani li abbiamo già fatti, adesso ce la fare tutti dal quinto sino al decimo, perciò ci voleva la scala piattaforma, quella grande. Ho preso freddo perché ieri sera c'era freddo, poi sono venuti i vigili per tracciare la strada, quindi c'ero io giù, perché della parte mia, della torre, me ne occupo io, ogni palazzo c'ha il suo responsabile di scala, quindi la documentazione eccetera, sono oggi me lo freddo, i chili con il giubbottino, e mi ha fottito, e vabbè, loro Franco, così è, mi sei limpice che prende accendermi, capito mi hai? Questa è la vita, e vabbè, quello che ci è che ci prendiamo, questa è la metà, così è Giulio, vai da Giulio, che tranquillo, perché la più. Ogni tanto ce n'è una, purtroppo è così, la vita delle persone è purtroppo così, e cosa vuoi fare? Si andiamo avanti, sembra più interessante che si risolva sempre il problema, poi per il resto, pazienza, l'età avanza, è ovvio, 77 sono aprili al 29 aprile, per cui 77, no, così, tanto fanno sbagliare. Vabbè, tranquilla la mia, sono quella bimba. Sempre in movimento, perché cosa vai? se non ti muovi è un casino, no, qualcosa mi ha fatto, io non è che sto zappando, però sono abbastanza impegnato, perché ho, ti ripeto, questo impegno col condomino e mi stanno dando molti incarichi e quindi sto seguendo, facendo, anche comprare i materiali, le cose, capito? E quindi insomma sto muovendo. Vabbè. Adesso un attimo vediamo, mi sento, abbiglio la burchina, porra, vediamo come mi sento, se è quello come mi sento, non ci scendo giù. Vabbè, no, guarda, io sono entrato da Porto Torres, quindi da casa di mamma, nel 1974, con la prima concessione, che tra l'altro ci volevano la vostra dei genitori. Gian Maria lo sentivo già, sì, lo sentivo, Gian Maria, Mario, Giuseppe, Intrepido, Davino, Passero, Battiglio, sì, Torellai, Capitola Verde, tutti quei vecchi lì io li sentivo già, ci parlavo, perciò sicuramente è entrato prima. Prima la concessione c'era una data, mi pare il 75, la medici della concessione 75, con il 74 forse era appena uscita, perciò c'era anche disciplinare attaccato, tutta questa mondezza attaccata, però è così, quindi insomma, gli anziani che sono rimasti siamo in pochi, lui, tu, io, Battisio, insomma quelli più vecchi di radio. E vabbè. Un assorso mi pare sia il primo di assorso Falconero, chi c'era prima di Falconero? No, c'era Trattore, c'era Corso, Vantini si chiamava, era Gesuina, e io sono tutto due o tre vecchi, però non lo so chi sono partiti prima. Perché con Giuseppino ci parlavo io, Giuseppino Trattore abitava lì in piazza, di fronte a Rugomuna, via Roma, la via Issa, abitava lì, dove si buttava in mano, avevo a fianco a farmacia, mi ricordo, comunque l'ho conosciuto, abitava lì, Giuseppino Trattore, poi c'era anche il fratello, Sacramento, però parlava da Sennoli, e poi parlava in macchina. Ma Giuseppino aveva bisogno di validà, a chi tu immagini già dei grandi cimunieri Varacchino, si sentiva la voce sua da via Roma a Sorso a via Cavour a Porto Torres, attenamente mentre intrecchiaviava o Giulio, Giuseppino Trattore. No, quello no. Sì, Trattore già lo so, conosciuto anche il fratello, fratello faceva il tassista, faceva alla stazione, era sempre Sacramento. Prima di lui, anche prima di Trattore c'era Sacramento in frequenza, si muovava soprattutto dalla macchina, dal tassì. Sì, il Gabino Pace lo stesso. Però Gabino Pace è entrato dopo di me, io l'avevo conosciuto in Piazza Italia, almeno un mese e mezzo dopo di me è entrato, 1972. Mi ricordo perché c'era una festa, c'era in Piazza Italia e lui stava parlando e io ero vicino a lui, stavamo guardando questa festa, non mi ricordo che festa era, e a poi mi è incuriosito sentendo questa voce, ho detto ma scusi, ma lei a Baracchino parla, gli avevo chiesto, ho detto sì, ma tu sei di un coso, parla solitario, sì. E io sono Giulio Dribbling, allora mi chiamavo Dribbling, là, che è il primo periodo. Allora ragazzi, come è stata conosciuta la voce? Sai, avevo una voce caratteristica, dunque l'avevo capito che era lui o qua. E così, sì, Mario poi era molto anziano. Però Gian Maria è sempre prima di Mario, mi ricordo che Gian Maria era prima di Mario in frequenza. Poi ce n'erano altri, ce n'erano. Ecco, Giuseppe Intrepido, lo stesso, quello mi ricordo. Quando mi stai dicendo tu, Fra, quando risorso, o quando cerco, quello lì era produttore di vino, se ricordo bene, vero Fra? Guarda, non lo so, non sono andato al Torino perché io l'ho conosciuto, però stavo appena arrivando a Torino e non conoscevo nessuno ancora. Addirittura io sono a concessione, allora, la concessione dall'89, il 19-12-89 sono a concessione, la prima concessione che avevo fatto, quella che diceva Claudio poco fa, che vede tanti moduli, tanti bulli, viene poco di cosa, viene pulito. Però io non conoscevo nessuno ancora. Sì. Sì, lei era così, comunque era produttore di vino, sì, mi ricordo benissimo. Ci ho parlato molto con lui, infatti mi aveva anche invitato ad andare a Sorso, gliel'avevo promesso che ci sarei andato, poi invece non ci sono mai andato. E poi qualche anno fa è morto, anzi qualche anno fa, da un bel po' là, è morto purtroppo, poveraccio. E vabbè, purtroppo l'ha visto lui, era anziano, era molto anziano. Sicuramente era anche più grande di me, per cui era andato, faccia l'anima sua. Va bene, avanti qua. Sì, già quello lì, comunque la cercola non vedente, dai. Già quella non vedente. In Massoso c'era un bel mifra, c'era Mario Persico, c'era tutta la greffa di Boro, c'era la greffa di quelli che trasmettevano a Radio Nova, come si chiamava, io non ricordo, comunque c'era un bel gente, ce n'era un bel gente, e lotte che non virani, ciu, che trasmetteva in banda, che andava via in un canale, che splatterava all'asso, però non farà per il dottore, io mi ricordo, era produttore, ci abitava a casa di mamma, ma anche quando sono arrivato a Sassari nell'80, sono arrivato a Sassari nell'85 ero in via Montegrappa per 2 anni, abitavo a casa dei miei suci, e poi nell'87 ci hanno consegnato la casa, capito? E la prima cosa che abbiamo fatto mettere dall'impresa era il palo per mettere l'antenna qua, ed è sempre in chi l'antenna, è cambiata un paio di volte, però 2 o 3 volte, però è sempre lì, è stata messa lì il palo per l'antenna, per la mantofa. E mi ricordo, ma Lotti non via, Santa Maria Madre Nostra, credo, primo braccio di ferro, mi sciughe, un afferratorio, e se no a Vannino, madre di Dio, sono una pantera proprio, Vannino Pantera, sempre veniva attaccato, splatterendo a tutto giù sul mare laterale, Gesù Maria Gara. Ma io c'avevo anche la direttiva, aveva della 27, che ce l'ha ancora, puntata, ma ce l'ha. Ecco, l'ufficio direttiva e passava a bici, passava. Sì, già mi ricordo io, che c'era molto fare di ex, quindi splatterava tutto Sorso, lui e Pino, erano i più forti. Poi era la Soppino, XPK, un buon stile. No, ma c'erano tanti associati, mi ricordo perché li ho conosciuti quasi tutti, se non tutti, quasi tutti, qualcuno forse mi sfugge, ma ce n'era un parecchio. Ero sempre associato, e vabbè, bei tempi, io comunque sono stato un anno senza concessione, quindi 73, nel 74 avevo fatto la concessione e non l'ho mai mollato. A tutt'oggi sempre la concessione, sempre quella. E vabbè, tu immagini già di chi? Oggi magari il 2, il 2 di gennaio, devo ancora fare l'altra, perché quella va compilata, che va a villaggio, a tutti i bei compilati. Gabbo. Vabbè, avanti Giulio, vai, altri 5 minuti, poi vi saluto perché mi sto calamaiando, come si dice, il gioco dormendo. Ho preso la bustina e mi sta facendo effetto contrario. Riprendi giù. Ok. Sì, ma in effetti è così. Sì, infatti, diciamo che in linea di massima tutti quanti avevamo iniziato a fare la concessione nel 94, fatta nel 93. Io mi ricordo nel 72 andavamo in giro con la macchina, allora io in quel periodo avevo l'autoradio e dentro il contenuto c'era anche il baracchino, tutto in un unico apparecchio, no? E avevo l'antenna della radio, che era di quelli elettrici, no? Sollevava elettricamente, sollevava, e poi avevo innestato un altro pezzo di cannocchiale proprio per adattarla alla frequenza del baracchino. E usavo l'antenna della radio adattata poi al baracchino anche. E andavamo in giro, io, Alla Verde, Bruno Lagano, il cognato, anche Aldo, mi sembra, sì, anche Aldo, Perseo, e qualche altra persona anche, no? Andavamo in giro, soprattutto la sera, siamo andati lì, dove c'era il primo UPI, quello del corso, il corso di Emanuele, dietro lì, dove abitava Beniamino, il padre di Alfa Romeo, e c'era questo che parlava male, e noi siamo andati a cercarlo per scovarlo, ma non ci siamo riusciti. Lui veniva a noi, quindi nella piazza lì, piazza Svetamento, che si chiama, no? Lì dove c'è il parcheggio, e lui veniva a noi, noi a lui non l'abbiamo mai scoperto chi era, boh. E diceva a me, guarda, adesso tu stai girando attorno alla macchina, vieni a trovarmi, vieni, ma te immagini qua, e non abbiamo saputo chi era questo che disturbava, boh. Vabbè, avanti qua. Vuol dire che l'ha nascosto bene, l'ha nascosto quello, tutti noi alla ricerca a casa. Ogla, Vallino e Cose, Pino erano i due posti, certamente siamo arrivati di noi, io e Pietro, anche da lui, a parità Cose, mi guardiamo la stessa. Allora ti immaginate che la roba di Pietro, già tutta io, perché Pietro è il cognato del fratello di Luca, lo certo, no? Era. Cappa che lo so, già lo so quello già. Infatti l'aveva chiesto a me se mi riprendevo, no? Io sapevo già come era la situazione. Era pure il mio regno andava via, lo sapevo già, che era bruciato da dentro, la grande che era ella. Era bruciato. E poi non mi interessava, no, e non l'ho preso, perché radio ne avevo e non mi interessava, era quello. Sì, e quando uscivi con Pietro di non che non capitava nessuno, guarda che io con un lineare a 150 all'Alghero arrivavo 9:20, arrivavo all'Alghero. Sì, vabbè, da lì sì, io avevo 9:20 da lineare all'Alghero. E quello è il problema, da qua ho dominato e poi ho mollato, ma ho dominato l'universo. Tu immaginati, viene il 4 di GB a carbonati, i pari di tutti, mi c'ho ancora l'antenna, ma baracchino non avevo più. A 2 gliel'ho bruciato quando c'avevo il TL 922, mentre Roberto gli ha bruciato la radio e a Antonio R20, che era venuto a prendermi. Allora ho pigliato un caffè, ho detto chiamami quando sei sotto, c'avevo il TL922 agganciato col 430, avevo allora, e mi ha detto mica c'ho cucciotto, ho giusticciato, sto scendendo, quando c'ho comparato l'ha già avuto a capo a terra, sotto controllandolo da petto, ho detto ma se sei sicuro, qui si è spenta la radio, quando mi hai detto c'ho cucciotto, a me ti ci dà la risa, qui si è spenta non accende più, e sarà bruciato il fuggibile. No, quello fuggibile era tutto a posto. No, con una cenata a radio aveva un fiaco di bruciato, di fumo, ha detto ciucciu, quanto? Ah, io andremo da Gojo, all'emiciclo a comprare un altro baracchino, perché? A che traje facciato? Era un grido. Ma ti ricordi, forse l'ha conosciuto anche Giulio, a Cristal, quello che era nella montagna di Alghero. Ehi, a Domenico, sono andato anche al funerale di Domenico Cristal. Allora, Domenico alle 5 del mattino parlavamo con Cagliari, tutti e due, lui da su, da Montedoglia e io da qua. Ma No, ti faccio vedere foto, ho paura, non ce l'avevo più su roba. Allora, la birata che avevate da radioamatore, io ero 22, era una bestia, io quando ero nono piano, adesso sono a secondo, ma ci avevo 10 metri in capo, un anno 50. Avevo 10 metri in capo, vuol dire le 9,22 agganciate, erano dolori forti. Infatti avevo fatto con i contattori vecchi che c'erano allora, avevo fatto chiamato l'ENA, se mi davano qualcosa in più, i 6 kW non c'erano, ma mi avevano dato 4, ma riuscivo a lavorare proprio poco, ma con Domenico ci divertivamo forte, e io a voglia ci divertivamo. E lui era lì su, alla polveriera, su di Monteruglia. Non c'è più, vabbè. Grandi cose abbiamo fatto, va basta, allora fermo a giocare i bicinetti, vai Giulio. Ok, sì, ma certo, sì che l'ho conosciuto a questa roba. Poco fa ho parlato di R20, ma stai parlando di R20 quello del Porto Torres, qua, amico di Danilo, il pescatore, eccetera, di quello stavi parlando? Quello del portuale, quello Antonio R20, anzi non si chiamava R20, si chiamava Romeo VI, R6 si chiamava quello, Antonio R6, capito? Non era R20, Antonio R20 era il tassista che aveva una Renault 20 gialla, Antonio Magia, che adesso è in pensione, e l'attività ce l'ha il figlio Alessandro adesso. Sì, mi sono confuso io, sì, R6 quello là era, sì, è vero, mi ricordo, lei l'avevo conosciuto bene, c'era Danilo, l'avevo conosciuto, Danilo il pescatore, infatti a casa di Danilo c'era andato un paio di volte, c'era andato anche, aveva dato qualcosa di pesca anche, ma aveva regalato, io gli avevo portato qualche bottiglia così di roba forte, Edro le Bagliarino, perché trincava forte. Poi l'avevo incontrato a Sassari, sto parlando di Danilo, e poi a Sassari aveva un'altra donna, aveva lui, una tipa che era separata e lui andava lì a trovarlo, che poi tra l'altro questa tipa era una mia cliente, ed è per quello appunto che l'ho visto lì in questa casa, e poi parlando, mi ha detto che era con questa donna, nonostante che era sempre sposata a Porto Torres, al villaggio satellite. Sì, me lo ricordo benissimo. E altri tempi qua, altri tempi. Sì, vabbè. Ma cosa? Un bacio verso di Ferro, è la moto di incidente, se non sbaglio, così è qua. No. Era malato, era nemico. Facevo le trasmissioni, queste cose qua, non è che si è curato tanto bene, quindi alla fine si è rimasto. Ah, ho capito, stava serico era, sì, ho capito, quelle persone, arrivato a una certa età, si bloccano, si fermano, purtroppo così, fanno sempre trasfusioni, fanno e sì, io... Due ragazze conosco io, che sono malate così, due ragazze che il padre aveva la bottega a fianco a me, aveva tanto tempo fa, sto parlando di 15 anni fa più o meno, e infatti una di queste è la più grande, è morta, ma è morta che aveva oltre 40 anni, e devo dire che è stata anche fortunata, perché di solito queste donne così, quando sono malate, non arrivano oltre i 25 anni più o meno. La sua sorella invece, grazie a Dio, ancora già è viva, è sposata con un romano e vive a Roma, vive, perché il marito era tecnico, radiotecnico, qualcosa del genere, dai. E dunque era romano e si è trasferito a Roma, si è trasferito. Va bene, avanti qua. Sì, Pietro, dove sei via? Bravissimo ragazzo, conosciuto giovane io, e poi si è aggravato, vabbè, però bei tempi, e tra, io quando sono arrivato qua nel 87, ho iniziato a trasmettere qua chissà se era pieno di gente. Io mi avevo fatto il mio spazio, stavamo sul 14 con Antonello, Antonello abitava a Rezzedo, siamo questi sul 14, ci divertivamo lì, poi c'era qualcuno che allora più testa matta, più pazza, c'era qualcuno qua vicino, c'era buccia il capo di Pulivaro Bossi, e allora io con la mia prepotenza li avevo, mi ero organizzato bene, messo tutti i paliti, tutti. Ci mettevano, io stavo sul 14, io facevo una porta se andavano sul 20 a fare questione. Loro prendevano bei colpi che c'erano i baracchini, io ci avevo già 430, quindi i colpi ne bigliavo di manco. Quindi io due frusci e via, tutto silenzio totale. E sì, insomma, si faceva diverse cose, beh. Cose passate, ormai siamo mani, non siamo più. E va bene. Però lì a Sorso c'era una bella battaglia, mi ricordo io, mamma mia che era. Antonio Giuseppe, per esempio, a volte, mi distruggo, mi faccio, mi disintegro, mi schiaccio. Come ti fa vedere, le fa vedere in sopra, ragazzi. Ehi, vabbè. Lui va via, io e Pietro va via la posizione, altro a parte di loro, che loro erano in un posto, sono sempre in un posto, io ho sempre la stessa posizione, sempre, e la posizione vuol dire loro, poi va via, oltre un baratto va via, 6 metri di baro, no, ho sbagliato, ci avevo tubo innocenti da 6 metri, più ne avevo altri 6 metri dentro al tubo innocenti tirato su, a 12 metri, più l'antenna, tutta ancorata, ma ancorata da me però. Guarda, anche per allineare io riuscivo bene. Guarda, io mi ricordo il tuo segnale quando io sono arrivato qua a Sassari e ti avevo anche chiesto se parlavi a Sassari. Sì, a Sassari, e tu mi hai detto che eri sopra la coperta di Sorso. Infatti poi, che io frequentavo molto il bambino, allora mi aveva fatto vedere dove vedi. Ma arrivavi a casa mia qua attualmente, a Carbonati, arrivavi 9 più 20. Sei calato molto, fra. Sei calato, adesso sei 9,5. Però è un buonissimo segnale. Ma prima, inizialmente, in quegli anni, arrivavi 9 più 20 a casa. Proprio segnale da locale. Locale. Antonio Reventi abita lì a Punti, o abita esattamente in quelle vele taschiere che ci sono in via, non so se via Pasella, cosa che via, chissà, boh. Lì abita Antonio Reventi, mentre Antonio R6 abitava in via Petronia. Via Petronia o Giulio, no, ma abitava via Cavour, all'angolo via Petronia abitava Antonio, avevamo le antenne una attaccata all'altro, ero io, Antonio Ressi a destra, Gavino Carciofo a sinistra, Ettore Burroni, che era già, non era ancora radioamatore, era leggermente più su, verso via Ettore Sacchi, eravamo tutti uno vicino all'altro lì, però Massimo mai ha avuto un problema lì, mai, trasmettevamo tutti tranquillo, c'avevo la radio che c'è tu, la FB23, contano più della tavola, è un linearetto piccolino della ZG, non mi ricordo se era un BV130 allora, o uno Speedy, che allora il BV131 ancora non era uscito, non mi ricordo, un centinaio di watt, comunque parlavo con tutto Sassari, molto molto bene, perché la posizione era lì, proprio fronte centro storico, quindi fronte mare, fronte scoglio lungo, e arrivavo molto bene a Sassari, molto molto bene. E parlavo con Nando, e poi siamo diventati amici per la pelle, siamo visti anche da poco, con Nando Elettronichi, con Antonello, con un sacco di gente, tutti. E sentivo già Gio Maria, tutti i vecchietti, capito? Per quello te lo sto dicendo. E vabbè. Riprendi Giulio. Sì, me lo ricordo, il tassista, tant'è vero, una volta lui era alla stazione, che lui faceva parcheggio, lì faceva, e era uscito tardi dal lavoro, e dunque non c'era nemmeno il tram, e la macchina non mi aveva l'aveva lasciato a piedi. Allora sono andato via alla stazione e l'avevo preso, proprio lui, 7:20, e mi ha accompagnato a casa. Mi ha accompagnato, pagando naturalmente. Sì, sì, me lo ricordo. Perché era tardi, sono state le 9:30, una cosa del genere. E tra l'ultima cosa, allora, in quel periodo faceva alle 8, c'erano per i punti. E allora io ho fatto, ma appena non vado a casa, dopo le giornate di lavoro, sono andato alla stazione e ho preso il taxi. Ho preso, e era proprio lui, Antonio Pellegrini, sì, me lo ricordo. Sì, sì, sono passati tanti anni, come fa a ricordarteli tutti, non è possibile. Non è possibile. E poi ce n'era anche uno a Senoli, io mi ricordo, c'era questo tipo da Senoli che modulava, però non mi ricordo più il nome, oh mamma, come sogno. Tutto lo ricordo, fra, ce n'era uno a Senoli. Ma uomo anziano? Ma non direi molto anziano, oggi io penso che oggi avrà avuto, se è ancora vivo, spero di sì, io penso che oggi avrà avuto almeno una sessantina d'anni. Da Senoli c'era Franco, adesso con un amico, però non mi ricordo, il figlio di Coso, di... Beh, adesso non mi ricordo come si chiama, lui che è entrato ultimamente, è entrato, aspetta come si chiamava quello, Romanziano, non mi viene. E ho capito chi stai dicendo. Sì, quello non l'ha modulato più, poi se ne è andato fuori. Ma chi stai dicendo? Tuo Massimo Baronetto, che modulava lì dalla punta di Senoli prima della scala. Quello c'ha l'età mia, adesso è vivo. No, non è quello. Trattore, che aveva un fratello, Trattore, un fratello che abita a Senoli. E il figlio di quello, che adesso non mi ricordo come si chiama, di Purpuedu, però non mi ricordo il nome. Ma tu stai dicendo il figlio di Sacramento, di Francesco? Esatto, Franco. Si chiama Franco, infatti. Franco Purpuedu si chiama, non Purpuedu, Purpuedu. Sì, che è il figlio di Sacramento. Lo papà si chiama Francesco e lui si chiama Franco. Sì, modulava anche quello lì. Quello lì stai dicendo tu, Giulio. Ah, mi ricordo che si chiama Franco, sì, questo già me lo ricordo, o Francesco, una cosa del genere, più o meno era quello, se ricordo bene. E modulava, era un giovane, allora, io sto parlando di almeno 35 anni fa, me. Non lo so di preciso, ma più o meno. Poi io penso che avrebbe avuto una sessantina d'anni sicuramente. E usciva molto bene, perché me lo ricordo per quel motivo lì. Perché riusciva a sovrammodulare parecchia gente di Sassari. Quando parlavo con lui non c'era per nessuno, no? Nessuno ci poteva bloccare, perché usciva fortissimo, cazzo, mi arrivava a 9:10, 9:15, tranquillamente. Cosa che da Sassari tante volte, sai, con i baracchini di allora, con le antenne di allora, non è come oggi magari ti arrivano anche 9:20, 9:30, ma prima non era così, prima l'antenna massima che avevamo era la Grand Prix, era un carciofo praticamente, come antenna. Sì, vabbè, scusate, il telefono, riprendi. Ehi, tu quando sei andato in Vitanoca ci portava la Super Regibus, la Gran Prix l'avevo a casa di mamma e poi mi avevo comprato la Super Regibus, la Pintusa Scarpa, e ci portava la Super Regibus, e poi quando è uscita la Mantova ho messo la Mantova 1, poi la Mantova 5 e poi sono tornato la Mantova 1, è sempre la Mantova 1 faccio, e va bene, ok. Sì, è quello lì comunque, quello lì. C'è una sessantina d'anni perché Francesco, il fratello di Giuseppino, ha l'età di mamma e quindi c'è una sessantina d'anni il figlio. 59, 60, può darsi pure 61, se mi ricordo se avevamo un anno di differenza o siamo tutti e due dello stesso anno, non me ne ammetto. Comunque già era lui, già è quello lì, fra, è quello. Vabbè. Va bene, già mi ricordo, l'avevo vista la tua antenna, ha detto in ora a Maradona a Barule. Aveva proprio Vannino per farmi vedere dove vedi, salendo. Dove sei adesso? Praticamente. la casa non era così, perché lei, insomma, però era lì, era in Chivici, era lì, era un stantellone grande, ma arrivavi 9 più 20, era una cosa impressionante. E vabbè, comunque, a quei tempi le antenne erano quelle, no? Perché o Gran Play, c'era Super Regibus, c'era la Standbuster, che pari a una baracqua mezzo abbessa, antenne bruttissime che c'erano. Le antenne poi sono uscite belle, belle robuste come la Mantova, ma la Super Regibus era un po' simile alla Mantova, un po' più fine, ma comunque abbastanza resistente, erano 5 ottavi, funzionava molto bene. Avanti Giulio, chiude le refi, al telefono Giulio, riprende fra, dai, io aspetto che rientro Giulio, poi vado a portare il cane, e poi alle 8 ceno, mi bongolo un pigiama e me ne sto vicino al calduccio, c'è caldo anche qua in stanza, ci sono più di 20 gradi, 20, 21 e 8, quasi 22. Si sta arrivando, riprendi fra. Ecco, tra l'altro faccio 27 gradi, figurati. Sta bene, tranquillo. Stavo dicendo, no, ho iniziato con una Grand Prix che mi avevano dato per iniziare, non mi ricordo neanche se me l'aveva data quella Grand Prix. Che avevamo la protezione civile, ho iniziato con quella, poi ho preso la Mantova 1 e dopo mi sembra un paio d'anni un fulmine me l'ha arricciata, me l'ha rovinata, la spirale l'ha fatta dritta. E quando mi sono andato giù parada, sono andato a Sassari e mi ho comprato la Mantova 5, che ho preso. In effetti quella Mantova 5 poi l'avevo regalata a Vannino quando ho smesso nel 2000, quando avevo smesso, e era nuova ancora. E niente, ho avuto Mantova 1, quando l'ho ripreso, ho ripreso direttamente, prima stavo modulando con un antennino di macchina, ho provato la radio perché andavano, ho visto che andavano, mi sono messo al computer e mi ho preso la Mantova 1, li ho preso, e dal giorno c'ho sempre quella. Ma il piantone che hai dato a me era della Mantova 1, Sì, quella era della Mantova 1, era, che me l'aveva data Vannino, però non serviva a niente, non serviva. E allora ho preso la cosa, la Mantova turbo. Sì, usciva però sotto la corratura che era tutta bruciata, dove? No, io il piantone l'avevo tutto pulito, sistemato. Avevo fatto avevo messo dei pali nuovi, dei tubi nuovi, l'avevo comprato, avevo fatto l'antenna a quarta onda, funzionava bene. Funzionava bene, vabbè sì, in quegli anni la Mantova era già uscita, ma quando sono arrivato qua la Mantova non c'era, quindi avevo preso la Super Regibus, era simile alla Mantova, aveva tre radiali però, lo stesso, anziché essere in fibra erano in alluminio leggero, e poi ho preso la Mantova, e vabbè, le antenne quelle erano, quando abbiamo iniziato lo stesso a casa di mamma nel 74, 75 avevo preso la Grand Prix, quella grande, diciamo con i radiali grandi, da 275, e poi avevo preso la Standbuster, che era Lucifer e ne avevo da subito, capito? E poi avevo preso la Super Regibus, e da lì me la sono portata a Sassari la Super Regibus, l'avevo piazzata, e poi si era rotta, l'avevo rotta al vento, perché io qua non avevo calcolato i venti, non erano uguali a produttore, cioè, era molto più riparato. E allora avevo messo la Mantova. Va bene, vediamo se è rientrato Giulio, dopodiché io vi saluto e ci sentiamo domani. Probabile anche adesso. Sì. No, dopo la Mantova 1 sono andato a Sassari, alla GBC, e mi stava dando la Tornado, mi stava dando. E il maestro dice, questo è il migliore della manzo, la G4, ma io lo vedo prendere lì. Se vai la manzo fa uno, la manzo fa cinque, la G4 la bici, se no mi la so due finire. Infatti non lo ne aveva, lui come in Baccaglia. Ha detto, se da voi lo anda, lo tornato. Ha detto, è un mini bente. Non andare sul sicuro, ho preso la moto vaccina. No, andare già va, è un'antenna che funziona. Però devi calcolare la robustezza dell'antenna, lì a te la tornata ti dura un mese. A Rubino Maestrali dici a San Camillo, mentre la Mantova è un'antenna molto robusta, resistente, che penso abbia fatto la storia per i CB. Capito? No, non ce n'era qua, se a me l'aveva portata Mario Babbo Natale, che stava viaggiando in continente. E un giorno era proprio a Mantova, mi aveva telefonato, mi hanno detto qua ci sono le Mantova 1 e Mantova 5 a 80 euro, piglia, mira immediatamente e poi cammina. Allora te la prendo, me la metto nell'articolato e quando sono a Sassari che rientro, vieni e te la prendi. Ho vinto, io c'avevo lo station wagon allora. Così ho fatto, 80 euro l'ho comprata, la Mantova 1, originale, comprata a Mantova, lo stabilimento di Mantova. Quello sì. No, io quando ho preso questa non la provavo la Mantova, non la provavo. Infatti in quel periodo Michele Polverone mi ha detto, dice, se non la trovo te la porto da Cagliari, a Cagliari c'è. Allora, ha detto bene, se non la trovo me la porti tu, me la porti. E invece ho chiamato a questo qua, questo, adesso non mi ricordo che cavolo era quello lì, elettronica attore, l'avevo preso, elettronica attore. L'ho chiamato, mi ha detto, dice, sì che ce l'abbiamo. Entri sul sito, dice, è la ordine, già c'è. E a me Mario stesso, è rimasto qualche giorno lì perché aveva lavoro da fare lì, poi come è arrivato a Porto Torres, io ero a Leneche allora, ho andato a Porto Torres che va ad entrare in portineria, me la sono messa in macchina. Sì, no, da Pesaro, a Cagliari c'erano le Mantova allora, tutta quella roba lì ce l'aveva appeso, Sigma, Lem, tutto, c'aveva ZG, tutto lo aveva appeso, adesso non so come pare che abbia chiuso, poi io proprio Mantova 1 e Mantova 5, poi la Mantova 5 si è fratigato il Biantone, e poi infatti mi hai dato quello tu, e poi avevo comprato la Mantova 1, e ancora c'è la Mantova 1, che è la migliore, non ce n'è come quelle antenne. Resistono a tutto, me ne ha fatto vento, ma quella è sempre bella, ben messa, vabbè, si tratta sempre di montarla bene, un bel piantone, belle staffe, perché l'antenna resiste, però se è piattata male, se è murata male, le bocca gigante, io ho le staffe anche a muro, cementate dall'impresa, vedo da 80 zetti. Entrano i miei bari 30 cm di natale comune, perciò sono staffe buone, è sempre lì. Va bene, dai, se non riprende Giulio, se non tu si rientra, io chiudo fra perché porto il cane e poi mi pongo in pigiama e me ne vado nel salone che c'è più caldo. Ok, ciao, grazie alle due chiacchiere, ciao anche a Giulio, se sei in ascolto, a chiunque fosse in ascolto sui 10. Riprendi, ascolto finale, poi chiudo fra, che sono già l'ottimo anche un quarto. Ehi, va bene, dai, già ci sentiamo, al limite sempre già tanto, tanto anche io alle 8, altri 10 minuti me ne scendo giù, ma c'è. Niente, buon tutto, dai, ci sentiamo tutte le prossime. Ciao, fra. Ciao fra, alle prossime, ciao ciao. Ciao, ci siamo qua. Ciao, dai, ti saluta Claudio che è andato via. Saluta. Ascolta, giusto, ti volevo chiedere una cosa. A me la fai la foto di quella tua antenna e me la mandi di dove si stacca? Dove si stacca? Stai parlando della Mantova Turbo? Sì, della Mantova Turbo. Dove c'è la massa? Sì, ho capito. Sì, la domani te la posso mandare su WhatsApp la fotografia, perché la devo smontare. E allora domani faccio la fotografia e poi te la mando su WhatsApp, va bene? In certa fretta, perché intanto non è che c'ho fretta. Piano piano, quando c'hai 10 minuti lo fai, senza impegno. E così quando fa qualche giornata belle me la porto giù e me la controllo. Perché si sa che è successo lo stesso lavoro. Sì, perché si oscila dentro, si oscila. E dunque a un certo momento il contatto non c'è più, e dunque non è cortocircuitata, anche la tua adesso ormai non è cortocircuitata. E adesso la controllo bene, se com'è. Poi se si può fare qualcosa gli faccio qualche modificazione. Sì, beh certo. Sì, senz'altro lo fa. L'antenna intanto io ce l'ho smontata. Devo prendere solamente tutta la parte, aprirla e ti faccio la fotografia della bobina e ti faccio vedere come è fissata e dunque poi te la spedisco tramite WhatsApp, ok? Certo, ti ringrazio. Infatti adesso poi mi faccio, già c'ho la macchinetta, mi compro il pezzettino anche da Bricome, pezzettino di lamiera d'acciaio e gli faccio un coso, quel dischetto che c'è sotto, quel coso che c'è sotto, glielo faccio nuovo, glielo faccio, ne smonto quello e quello lo uso per disegno, lo uso e me lo faccio in acciaio, in modo che non si arrugginisce. Sì, beh certo, in acciaio inossidabile sarebbe l'ideale, certo, non l'acciaio normale, l'acciaio inossidabile devi mettere, se non si arrugginisce lo stesso. Sì, va bene, senz'altro, un problema non ce ne so. Io domani la smonto questa base, diciamo, chiamiamo la base, perché in effetti è la base, e poi gli faccio la fotografia e te la mando, senz'altro, non ci sono problemi. Scusa se sono andato poc'anzi perché mi ha telefonato mio fratello e non smetteva più a chiedermi informazioni, eccetera, eccetera. Va bene, fra, problemi non ne ho, figurati. Senz'altro, farò così. Ma smonto, faccio fotografia e poi te lo mando, non ci sono problemi. Dimmi una cosa, ma ascoltami, sai, sul baracchino, cioè sul Midland, niente di stare ascoltando più, io non ne ho più accesso. Ma stanno ascoltando stasera, c'è quella Italia 11 che quella canaletta l'ha occupata quelli che c'hanno il campo, i camperisti l'hanno occupata. E a quanto pare all'inizio se ne volevano approfittare, cioè hanno chiesto anche all'amministratore se questa canaletta la potevano fare solo per loro, lì e là, e l'amministratore gli ha detto di no, che di tutti, le canalette sono di tutti, lì e là, e poi sono entrati a tragedia, si stavano quasi tutti picchiando, si stavano. Poi alla fine hanno capito e hanno detto, dice no, perché noi nel CD dice, il canale 11 era dei camperisti. E uno gli ha detto, guarda che nel CD non era dei camperisti, perché da meno al 40 era come qua. Tutti potevano parlare. L'unico canale che lasciavamo, dice, ed è vero, libero sempre che non entravamo mai, era il canale 9 perché lo usavano la protezione civile come emergenza. Infatti è così, il canale 9 si dice che sia ancora oggi adibito all'emergenza, che poi tra l'altro di emergenza io non ne ho mai sentito, in 47 anni di frequenza non ho mai sentito uno sul canale 9 che chiamasse per l'emergenza, mai. Solo tantissimi anni fa, 35 anni fa, forse anche di più di 35, forse anche 40, sì, 40 anche, quando era successo il terremoto in Friuli, allora c'erano dei collegamenti perché per io c'era anche preparazione e parlavamo con loro perché lì c'erano i CB e le levature che facevano la ponte proprio per il disastro che era successo lì nella zona del Friuli. Per cui emergenza sul canale 9 io ne ho mai sentito, mai. E quello è successo nel 75, è successo quel 20 giugno. E io ero militare e hanno fatto intervenire anche a lui dalla caserma. Però un paio di giorni, poi via. Dove vi lui al Nannini, troppo toglievano i morti da sotto le macchine, basta via. Quello è stato un disastro veramente. Purtroppo è stato così, per dire, allora siccome era mancata la corrente elettrica e certi posti, dove era successo la tragedia, là, e anche i telefoni eccetera, e dunque allora c'erano i radioamatori e anche i CB che si collegavano e sentivamo tutto, ascoltavamo, chiedevamo anche cosa era successo, come mai, boom, basta, le solite attue, le solite chiacchiere. No, ma è curiosa però questa scena che mi sta dicendo, che i campionisti vorrebbero il canale 11 delle CB Talk contro loro, che mi dite so, ma è ridicolo, ma come mai, come fa uno che a fare una richiesta del genere, non lo so, ma infatti uno gli ha detto, dice, guarda, voi state qua a parlare tranquillo, poi io se entro qua a parlare, se voi state parlando di camper, queste cose qua, che a me non ne va, come me ne vado da Catanaveta, dice, non è quello il problema. Però tocca a me andarmene, non buttarmi fuori dalla Canaletta, quello là dice. Dice, no, ma qua non vi sta buttando fuori nessuno, e a me vi state dicendo che volete appropriarvi, questo, là, no. Dice, qua entra, è libero per tutti il canale, entrano chi ha voglia di entrare. E nessuno deve dire niente. Certo, già lo credo, che aspetta, non lo so io, cosa pretendevano? Che la video non facesse il sistema anche perché vuole isolarsi dal resto del mondo, ma no, ma quando mai? Queste sono richieste assurde, sono delle persone ignoranti che possono fare certe richieste. Che aspetta. E compri una frequenza, che fai la domanda alla cosa, allo Stato, se ti dà una frequenza, te la prendi, te la fai e te la paghi. Tanto bisogna vedere se te la danno, quello è tutto, perché non è detto che uno, anche se hai soldi, che ti può comprare una frequenza così, no? E capita. Già fanno fatica quelli delle TV private, delle radio private, capita, ad ottenere la licenza per se uno vuole piazzarsi una stazione radio, non è così facile, no? E questi pretendono che di usare la Midland proprio per i fatti loro, boh, incredibile, boh, quello che ti dica fra, la gente è fatta in tanti muri. E loro ci hanno provato, diciamo. L'amministratore gli ha detto di no, che non è possibile. Poi loro anche con CB, c'era qualcuno che aveva il CB e aveva dice noi col CB, e perché non andate col CB? Il CB prende, sì, ma non come questa è un'altra cosa, è un vero di un'altra cosa, e questo, però questo non è un CB, questo è un'app, questo va solo con internet e cose, è la mappa, è la mappa. E se non c'è quelle due cose, dice questa non funziona. Infatti è così. Uno non è che può ad esempio farlo con un semplice telefonino se uno non ha la scheda per poter entrare in cose nella frequenza, o perlomeno se sei a casa, se agganci per dire alla frequenza alla router che è a casa della DSL, allora sì, allora è un altro discorso. Ma se uno ha un semplice smartphone, però non ha l'abbonamento per dire anche per il computer nello stesso telefono, non potrà mai averlo, a meno che quel telefono non lo utilizzi a casa, se uno ha il computer a casa, non è diverso, perché si aggancia lì a quella linea lì. Ma se ti allontani e non hai tu quell'abbonamento che hai nel telefonino, anche internet, e allora te lo sogna lui di trasmettere così. E infatti, poi Poi ho visto che c'erano, prima c'era Diego, c'era Renato, quelli lì, non li ho più sentiti, non li ho. Probabilmente qualcuno è entrato a fare casino, così li hanno preso tutti. Perché è una cosa che io non lo so quanto possa durare questo sistema, perché sinceramente anche l'altro giorno c'erano delle persone che stavano parlando male, eccetera, eccetera. Per cui se ritorniamo poi al sistema di prima, quando c'era tantissima gente al baracchino che facevano bugiare in tutti i canali, e allora tanto vale non entrarci più, cosa è da qua. Infatti io quando ci sono canali dove c'è un po' di malaonda oppure tantissime persone, ascolto, guardo magari nella rubrica chi c'è, per curiosità, sono i nomi, guardo, ma poi cambio canale, cerco un canale, se ho l'intenzione di parlare, dove ci sono pochissime persone, se no non ne vale la pena nemmeno soffermarsi, magari dove ci sono 30 persone, e cosa mi stai a fare? Non è il caso proprio, guarda. E poi sono analizzando di, sono parentini, sono 39, 40, anche a 50 sono arrivati stasera, anche a 50 sono arrivati. Sono parenti, ha detto, non ci siamo neanche tutti, perché tutta Italia ce ne sono camperisti. E cosa vedi? Come fanno a parlare così? Appunto, non riesco a capire. E poi non tutti i campionisti si conoscono sicuramente, però lo vorrebbero, perché ci sono i campionisti che vanno in comitiva, vanno, no? E allora in quel caso lì usa solo il baracchino e basta, e ciccia, però non puoi pretendere di avere diciamo la possibilità di parlare da soli su un determinato canale, assolutamente no. Anzi, adesso hanno ridotto anche da 100 km, hanno ridotto con la 30, però non so se chi ha il microfono può parlare anche a 100 km, non lo so, perlomeno prima si diceva che potevano parlare anche a distanza sempre di 100 km, ma ho visto che anche lo squelci adesso in automatico è tornato indietro da solo, prima era a 100 e adesso è a 30. Sì, perché, ma quello lo sapevamo già, perché ce l'avevano già avvertito i signori della Migra. Hanno detto che dal 1 gennaio riabbassavano di nuovo a 30, perché chi ha il microfono, il dual mic, allora quello lì rimane a 100, se si collega con quel microfono. Se non hai il microfono, torna a 30. Sì, infatti, voglio dire, stanno facendo così, perché io l'avevo sentito inizialmente che avrebbero fatto così, è vero, siccome non li posso sentire, che non sapevo se stanno trasmettendo lì in quel canale, perché i canali aggiuntivi li avevano messi, avevano fatto il canale 45, loro, eccetera, eccetera, no, insomma li avevano fatti i canali aggiuntivi, e quelli ci sono sempre, però la distanza è stata ridotta. L'interesse della Midland appunto era proprio quella di vendere questo genere di microfoni per potersi collegare appunto a lunga distanza anche a 100 km, che poi qui in Sardegna non è che valgono molto, intanto non c'è nessuno qua, magari il continente è diverso, perché sai, lì ci sono tanti camionisti che girano da un posto all'altro, ma qui ormai in Sardegna non c'è nessuno, non ne vale la pena nemmeno comprarlo. Vabbè, se a uno che gli interessa, diciamo che non è che non vale la pena, perché non c'è nessuno qua, ma c'è uno fa gente fuori, e noi parli in diretta, parli, caspita, è l'emicidiale, anche col microfono dual mic, è offesa, solo che, d'estate, guarda, non è quel microfono che ci vuole, perché parliamo con tutta Italia senza il microfono, anche con la sua CD. Sì, ma io intendevo quando passi nella modalità canalizzata, no? Anche lì noi non ci possiamo parlare, perché da qui al continente, no? Non è che ci sono solo 100 km, no? anche linea di ore e che chissà, per arrivare per dire non so a Civita Vecchia per fare un discorso, mi vado 400 più se si può immaginare. Quella è la versione che chiaramente si utilizza solo sul canalizzato, no? Quello sì, sui famosi 40 canali. Per dire, allora conviene a quella gente, ma a noi proprio sì, se vuoi ti serve per parlarci bene, per farti sentire meglio, tutte queste cose va benissimo, per averlo in macchina, la comodità di non avere il telefonino in mano, siamo d'accordissimo, non ci sono dubbi. Però il fatto della distanza a noi poco ci interessa. Quello sì, quello è vero. E poi hai visto quei canali, gli ultimi che hanno fatto? Dice che c'è il microfono, lì parli in diretta lo stesso. Solo che lì, se non c'è il microfono non può entrare, entra solo se c'è il microfono. E che non è, può solo ascoltare ma non intervenire. Sì, è vero, quello sì, in effetti è così. Per cui, ma intanto quelle sono secondo me persone che sono tutti vicini l'uno all'altro, e sempre parlando della modalità canalizzata, per cui io vedevo il bollino, vedevo anche a distanza di Oristano in quel periodo passato quando era attivo ai 100 km, nessuno parlava, eppure c'era il bollino proprio guardando il radar. Sui 100 km, cioè Oristano addirittura, vabbè Oristano sono 120-130 km da Sassari, e magari non ci arrivavo, non lo so, io ho provato anche a chiamare, ma il bollino era grigio e no, praticamente significava che non era attivo, perlomeno per la zona di Sassari, non lo so. Ma Oristano mi sembra che distruggono i 100 km. Non so sicuro, però mi sembra che mi superi. Sì, mi supera perché Oristano dovrebbe essere 130, una cosa del genere, 125-130 km da Sassari. Però ho visto anche sul radar gente a 80 km, che segnava 80 km, eppure anche quello io ho chiamato e no, nessuno ha risposto, non so cosa dire. Sì, diciamo che se invece parli a distanza di 30 km ti rispondono, quando c'è qualche bollino a quella distanza ti rispondono. Ecco, e qua non c'è, ce n'è poco, ce n'è, qua non c'è quasi nessuno. Io quei giorni che ero lì a Torino, aprivo in fiacca, aprivo, mettevo la cosa, e a pieno di CB, pieno. Sì, ma sicuramente, appunto sto dicendo, lì ci sono, perché ci sono, qua no, gli stessi sassaresi difficilmente vanno lì in quella genere di trasmissione, io tante volte accendo, guardo, controllo se c'è qualcuno al Sassari, non c'è nessuno, eppure ce l'hanno tutti, ce l'hanno, o quasi tutti, quelli che sono rimasti in frequenza ancora, però anzi tanta gente non ci va più perché non le piace, tipo Bacchisio ad esempio, tipo Gio Maria, non ci vanno perché non le piace, ci vanno a scuola lo stesso, non ci va nemmeno lui, qualche volta ha già provato, ma non più di tanto, però non le piace, ecco, diciamo che siamo più o meno tutti così, della stessa opinione, baracchino è baracchino. E tutto un altro rapporto, anche se non riesco a parlare molto lontano, però è un altro rapporto, che fate il buio mi fate sentire, non è quello il problema, e se vuole l'altro si fa sentire lo stesso, che oggi i mezzi non ci manca. Infatti anche l'altro giorno c'era Roberto, un amico di Sassari, che anche lui ce l'ha, che l'avevo fare io con l'applicazione. Accendo, non c'è nessuno, anche in quel coso lì dice ho acceso, non ti ho mai sentito, l'abbiamo sentito poi una volta che l'ho contattato io perché mi sono accorto che c'era, mi sono collegato due volte con Alberto Piccolo, come si chiama, Salvatore Maestrale, che prima abitava a Ottava, ti ricorderai, Salvatore Branca, quello che aveva l'officina di via del Porto Torres, delle macchine grosse. E adesso lui si è trasferito in Austria e due volte l'ho contattato perché ho visto il suo numerativo maestrale, sono entrato, l'ho chiamato ed era lui, in effetti era lui. Ma una volta ogni morte di Papa e non va. Sì, me lo ricordo di maestrale, io avevo sentito. Vabbè, quello purtroppo molta gente è sparita, e come quando muovevamo qua sul 5 c'erano i camionisti, c'erano scendendo da Cagliari, salendo, cagliaristani, tutti a lungo venivano per la miseria, allora ce n'era movimento, ma invece adesso non c'è più niente. Io lavoravo anche nel posto giusto, lavoravo, che ero sempre dove ero ultimamente, dai, me ne sono andato in pensione, ero sempre lì, io facevo carico e carico lì, e i camionisti li conoscevo tutti li conoscevo. Ed era bello perché li accompagnavi quando ero a casa, che ero a riposo, io mi mettevo da casa e muovevamo alla grande. Sì, beh certo, ma io ho notato anche una cosa, sarà, forse la mia idea, non lo so, ma da quando è andato in pensione Luigi Vulcano hanno incominciato a diminuire anche le trasmissioni da parte dei camionisti. Prima quando c'era Vulcano, sì, erano diminuiti anche allora, però c'era rimasto sempre qualcuno che si sentiva. Invece da quando è sparito dalla frequenza Luigi Vulcano, non si è sentito mai più nessuno. Qualche volta, ma veramente, sento quello di Benetutti, non di Benetutti, non mi ricordo, quello che vende la legna, lì, che porta il carbone, dai, che viene da dove viene, non me lo ricordo, da 80 km da Sassari, non mi ricordo come si chiama. Solo lui qualche volta, ma veramente proprio, perché se no non nemmeno più lui si sente, non so cosa dirti o fra. Sì, è vero, neanche quello lì si sente. Prima entrava, faceva le battute quando arrivava in questa zona, faceva. E vabbè, purtroppo magari Gigi era l'unico che alimentava, che stava magari sempre a chiamare, oppure andava nel 45, e più, infatti neanche Budose più che si sentisse, nessuno, proprio sono tutti, hanno chiuso tutti, magari ancora, però non ci sono più. Infatti, nemmeno lui, nemmeno Massimiliano, non si è più sentito. Una volta ogni tanto, ma questo raramente, no? Perché la gente vede, non c'è nessuno, e allora dice cosa c'è da fare, se non c'è nessuno, tanto vale, non c'è nemmeno, la gente la pensa così, sicuramente, cioè la pensiamo tutti così, meno male, io stasera sono entrato, ho chiamato qua prima, stavo chiamando a Claudio, non c'era, non mi ha risposto, non c'era. Dopo un po' mi è venuto in mente, adesso accendo il PMR, chiamo il PMR. E il caso ha voluto che invece il PMR c'erano loro, Gio Maria, Graziano, Battisio, c'era. E c'era anche Claudio, è entrato Claudio, perché stavano poi parlando anche il 27, alternavano un po' il 27 e un po' in PMR. E Gio Maria stava scendo male e Claudio gliel'ha fatto notare che stavo scendo con anche lui con grande e con 3 watt, ed era per quello, forse era freddo, non lo so, fatto sta che stava arrivando molto basso il segnale e si era pensato che c'era problema l'antenna, invece no, era lui che stava usando il picchio con 3 watt solamente. E allora gli ha consigliato di usare almeno 10 watt. Ecco, e beh, certo, io, guarda, non uso mai meno, adesso sono 10-15 watt, e modulati, no, non ho capito perché si è abbassato così, come ho detto, l'ho toccato, non me ne sono accorto, però di solito ce l'ho sempre 30 watt, ce l'ho 20-30 watt, ce l'ho sempre. Adesso si è abbassato, non ho capito il motivo. Probabilmente pulendolo ho toccato e si è abbassato. Sì, ma già esce lo stesso. E certo, queste radioquate, se tutti meno di 10 a 5 watt, questi non è che modulano tanto bene. Poi se è freddo è peggio ancora. Ma cosa c'è? Pochi picchi positivi? A me non avrei un processore sacchiato. Sì. No, sono positivi, sì. In effetti c'è una cosa attaccata, perché ieri, ecco, adesso l'ho attaccata, processore, perché ieri era in banda laterale, in quel canale là, e ho attaccato il processore, sì, è vero, e non me l'ero, e non l'avevo agganciato. Ma io già c'è l'orecchio vigile. Ciao di nuovo a tutti e due, ciao Giù, mi sono rientrato adesso, sono uscito io, mia figlia era impegnata. Vabbè, Gigi da quando è andato in pensione, non si intende né più Edo perché è impegnato, capito? Non si sente né camionisti perché lui è un trascinatore come me, io lo stesso, sono un po' assente e poco traffico c'è, perché prima c'ero sempre io e c'era un bel più di gente. Adesso c'è poca gente, vabbè, pazienza. Il 3 di giugno, adesso è attaccato il processore. Ok, claro. Beh, certo, in effetti prima era diverso, ma non capisco come la gente si sia allontanata così. Stavo pensando io, solo che dice, magari mi faccio uno squillo, le mando qualche cosa sul WhatsApp alla gente, poi con capace che dice, se no tutti, che te la frega, se sei sul canale 10, per dire, no, questa è la mia idea, può essere anche che funzioni. Poi non l'ho sentito a Franco, il marito di Opera, non l'ho sentito, una persona in gamba, e dunque, boh, cosa vuoi che dica? E tanti altri, lo stesso Sandro, la foto torna, pazienza, lui vabbè, Sandro ha detto tutto, si era sotto l'antenna, era cavato tutto e non era più, cioè avrà qualche cosina, ma forse in campagna, e non entra più in frequenza. Insomma c'erano le persone in gamba, uno, Massimiliano lo stesso, non entra più, evidentemente. I turni di notte credo, però che sta lavorando fuori e so che fa anche i turni di notte. Mi ricordo che mi aveva detto una cosa del genere, cioè i lavori nella strada che non si interrompono mai perché c'è il turno giornaliero e il turno notturno per fare questa strada di Sassa di Olbia o cos'è, boh. E così, a te ti risulta qua? Assolutamente no, le radio Massimiliano sono qua a casa. Capito? Perché Massimiliano sta facendo dei lavori, delle modifiche da sotto a sopra, da sopra a sotto, e quindi ha dovuto staccare momentaneamente tutto perché c'è un casino, capito? Sta facendo dei lavori, quindi le radio sono qua, siamo sentiti anche ieri, no? Avanti ieri, infatti devo scendere perché devo salire anche un po' di microfoni, che così ne fate un po' di controllo di Turner, che c'ha delle NMB più 4, più 5, che hanno in mezzo alla polvere, li pulisco tutti, li preparo già, perché poi appena terminati i lavori li mette tutti in ordine, capito? Ho capito, no, pensavo che stesse facendo i turni, perché lavoravo anche di notte proprio per accelerare a finire questa strada. No, io ero convinto di quello. E vabbè, allora sta facendo lavori a casa. Giustamente è meglio che le radio le abbia tolte, perché si impoverano tutti, va a caricare. E me ne sono reso conto io dal lavoro che ho fatto giù nell'ufficio per mia figlia, agli impoveriti. superato di tutto, macchine, frese, tutto quello che c'era, mamma mia. E poi chiaramente tre volte che ti serve e va a pulire, è chiaro, è così. Sì, ma succede così. Indietro mi fanno i capugli e come ti diventano i tedeschi. Beh, Franco. Allora. vabbè. Oh, ragazzi, io vi saluto perché ho tirato gli occhi sopra dove c'è la sveglia, l'orologio, e ho visto che sono le 23, e vado a fame, non mi manca più. Ci sentiamo, dai. Buon tutto, buon proseguo, buon tutto, e buona cena quando la farete. Ciao Claudio, ciao Giulio, alle prossime. Avanti giù. Ok, e nel frattempo hanno chiamato anche a me da giù. Infatti già ho detto, sto scendendo. Vabbè, ciao qua, grazie per la chiacchierata, alle prossime. Senta, se la sera ci senti, io di solito devo dire che la sento tutte le sere, almeno per scaldare, anche se magari a parlare non è possibile perché magari non c'è nessuno, allora però con la radio la faccio scaldare. La lascio anche 3 ore accesa, no, per me non ce ne so. Vabbè, ciao qua, salutoni, grazie per la chiacchierata, alle prossime. E anch'io chiudo qua, mi hanno chiamato per la cena, dai. Infatti è vero, sono le 8:24 minuti in questo momento. Ciao qua, salutoni, a domani. Grazie anche a te per la chiacchierata. Poco al prima te la porto il mio fratello, dunque ho dovuto tardare un pochino per riprendere, ma non smettevo più di chiedere informazioni. Ci sentiamo, ciao qua, a domani, ascolto finalino e poi chiudo. Sì, giù, mi saluto Franco, e tutti quelli sono ascolto. Ciao, a domani, giù. Ma io ho lasciato acceso e ho ripreso per salutare perché è già pronto anche qua. Ciao, buona cena, buon tutto, domani se coincide. Ciao, buonanotte. Ok, ciao, buonanotte a voi. Ciao. Ciao.